mentre strillo da sto cielo. Io chiedo solamente d'esaudimme in desiderio. Corri dritto da mi moglie, dagli un bacio da parte mia. Die che se fosse stato per me, non me ne sarei mai andato via. Per non sentirmi solo, io credo agli fantasmi, ma vedo un'ombra scura che cammina insieme a me. E quando torno a casa, che è ora da dormire, mi metto a ragionare con te, non si dorme più. Sono morto io, tu sei viva te, ma che dubbio fa. Giorno me discordo, con tanti impicci attorno, nemmeno io sorrido più, me resta da cantare. E quando viene la sera, tu me te metti addosso, lo so che vuoi restare con me, ma che ce posso fare? Sei morta te, e so vivo io, è solo una tragedia. Resta con me, se Dio non te può, io rimango qua. Ma se te sei impiccata, la colpa è pure mia. Aspettami, tu stai nine che mo vengo da te. Thank you. specchi dentro le case vostre. No, avete rotti tutti, per quanto siete brutti. Il Muro del Canto, l'Ammazza 7, il loro primo lavoro del 2012, che terminava con l'efficacissima Quanto siete brutti, viene da voi. Anticipata da Son morto per sbaglio e Parla con me. 30 anni ormai. Incrocio efficacissimo tra folk, rock elettrico e una sottile oscurità che pervade l'intero lavoro. E a cantare con me non te ce mette, che te faccio il cuore fette a fette, e le donne mia son maledette. Io sono figlio della mazza sette, e a cantare con me non te ce mette, che te faccio il cuore fette a fette, e le donne mia son maledette. E a cantare con me non te ce mette, che te faccio il cuore fette a fette, e le donne mia son maledette. Io son figlio della mazza sette, e a cantare con me non te ce mette, che te faccio il cuore fette a fette, e le donne mia son maledette. E intanto il muro del canto è andato imperterrito, anche perché Solaris ci ha chiamato qui in radio dicendoci anche che riprenderà a trasmettere dopo un periodo di silenzio il prossimo venerdì 24 aprile. Quindi Solaris questa sera non andrà in onda. Desaparecido! E infatti era desaparecido per un periodo il buon Solaris. Evidentemente questo è il brano dei Litfiba, come tutti sapranno, estratto dall'album omonimo, al quale seguirà Guerra. Oscurità, e l'uomo vive un sogno fatto di silenzi, sognerà la terra, per terra. Trent'anni fa usciva questo Desaparecido per Litfiba di Piero Pelù ed era una fortunatissima stagione musicale, quella del nuovo rock italiano, che vedeva in Firenze la città che irradiava in giro questo nuovo tipo di cultura musicale. Desaparecido e Guerra nella versione dell'album, una delle tre versioni, un'altra sta andando adesso sotto la mia voce. Una versione che ci ascolteremo invece la prossima settimana, che era estratta dal primo EP dell'82 addirittura. Firenze dunque significava Litfiba ma anche Diaframma, quindi non è un caso che qui abbiamo il primo lavoro invece dei Diaframma, che uscì nell'84, si chiamava Siberia. Ci godremo la voce di Miro Sassolini nel brano omonimo in Amsterdam con un duetto con lo stesso Piero Pelù. Vorrei rapire il freddo in un giorno di sole che potrebbe tornare. di queste distanze.